Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Jane Eyre di Charlotte Bronte, traduzione di Monica Pareschi. In biblioteca c'era silenzio quando entrai e la Sibilla, se così si poteva chiamare, se ne stava comodamente seduta in poltrona vicino al caminetto. Portava un mantello rosso, un cappello nero e un cappellaccio da zingara a tesa larga legato sotto il mento con un fazzoletto a righe. Sul tavolo c'era una candela spenta. Lei era china sopra il fuoco e sembrava leggesse un libricino nero, forse un libro di preghiere, alla luce delle fiamme. Borbottava le parole tra sé come fanno spesso le vecchie quando leggono e non smise nemmeno quando entrai, come se volesse finire il capoverso. Rimasi ferma sul tappeto a scaldarmi le mani, che avevo piuttosto fredde, per essere rimasta seduta lontano dal fuoco del salotto così a lungo. Non mi ero mai sentita più tranquilla in vita mia. E in effetti non c'era nulla nell'aspetto della zingara che potesse destare preoccupazione. Chiuse il libro, alzò lentamente lo sguardo. La tesa del cappello le oscurava in parte la faccia e tuttavia, quando la sollevò, vidi che era una faccia singolare, scura, quasi nera, con i ciuffi ispidi da folletto che spuntavano da una fascia bianca che le passava sotto il mento e le copriva in parte le guance, o meglio, le ganasce. Gli occhi mi si puntarono addosso all'istante, con uno sguardo baldanzoso e diretto. «Bene, dunque, vuoi anche tu che ti predica il futuro?» disse in tono deciso come il suo sguardo e duro come i suoi lineamenti. «Non mi importa granché, madre, ma se volete fate pure. Devo però avvertirvi che non ci credo». «Solo una sfrontata come te poteva rispondere così, ma me l'aspettavo, l'ho sentito dal tuo passo quando hai varcato la soglia». «Ah sì? Avete l'orecchio fino?» «Certo, e anche l'occhio e il cervello». Ne avete bisogno nel vostro lavoro? Sicuro, soprattutto quando ho a che fare con i clienti come te. Perché non tremi? Non ho freddo. E nemmeno impallidisci? Mica sto male. Perché non vuoi consultare la mia arte? Non sono sciocca. La vecchia strega soffocò una risata sotto il cappello, dopodiché tirò fuori una pipetta nera, l'accese e si mise a fumare. Dopo essersi concessa quel momento di riposo, raddrizzò la schiena, si tolse la pipa di bocca e, continuando a fissare il fuoco, scandì lentamente. «Tu hai freddo, stai male, sei sciocca». «Dimostratemelo», ribattei. «Lo farò in poche parole. Hai freddo perché sei sola. Nessun contatto accende il fuoco che hai in te. Stai male perché il migliore dei sentimenti, il più alto e il più dolce che sia concesso all'uomo, resta lontano da te. Sei sciocca, perché anche se soffri, non fai un cenno perché s'avvicini, né fai un passo per andare nella sua direzione, dove esso ti attende». Dopodiché si infilò ancora la pipa in bocca e si rimise a fumare vigorosamente. «Potreste dire altrettanto a chiunque si trovasse a vivere solo e fosse a servizio in una grande casa?» «Potrei dire altrettanto a quasi chiunque, ma sarebbe vero per quasi chiunque?» «Non capisco gli enigmi, non ho mai risolto un indovinello in vita mia». «Se vuoi che parli più chiaramente, mostrami il palmo della mano». «E immagino di dovervi allungare anche qualcos'altro, vero?» «Naturale». Le diedi un uscellino. Lo mise in una vecchia calza che tirò fuori dalla tasca e dopo averla annodata e rimessa al suo posto mi disse di darle una mano. Obbedii. Avvicinò la faccia al palmo e lo scrutò attentamente senza toccarlo. «È troppo liscia», disse. «Non posso far nulla con una mano come questa, è quasi senza linee. Poi che cosa si può vedere nel palmo di una mano? Non è lì che è scritto il destino». Lo credo anch'io, dissi. No, continuò lei. È scritto in faccia, sulla fronte, intorno agli occhi, negli occhi stessi, nelle linee della bocca. Inginocchiati e alza la testa. Ah, adesso sì che dite cose sensate, dissi accontentandola. Comincio a fidarmi un poco di voi. Mi inginocchiai a mezzo metro da lei. Attizzò il fuoco e dai carboni si alzò un guizzo di luce, ma il bagliore, illuminandomi il viso, mise ancora più in ombra il suo. «Mi domando con che sentimento sei venuta a trovarmi stasera», disse dopo avermi esaminata per un po'. «E quali pensieri si agitino nel tuo cuore per tutte le ore che te ne stai seduta nell'altra stanza, con quella gente elegante che ti passa davanti come le figure di una lanterna magica?» Senza nulla in comune tra te e loro, come se quelle che osservi fossero solo ombre della forma umana e non persone in carne e ossa. Spesso sono stanca, talvolta ho perfino sonno, ma raramente sono triste. Non conosci gli uomini in questa casa? Non hai mai scambiato parola con nessuno di loro? Nemmeno col padrone di casa? Lui non c'è. Che profonda osservazione. Una scappatoia davvero astuta. È andato a Milcot stamattina e tornerà stasera o domani. Questo lo esclude dall'elenco delle tue conoscenze? Lo cancella, per così dire, dalla faccia della terra? No, ma non vedo che cosa abbia a che vedere il signor Rochester con ciò di cui state parlando. Stavo parlando di signorine che sorridono agli uomini. E ultimamente negli occhi di Rochester sono stati riversati tanti di quei sorrisi da farli traboccare come tazze piene fino all'orlo. Non te ne sei accorta? Il signor Rochester ha il diritto di godersi la compagnia dei suoi ospiti. Questo è fuori discussione, ma non hai osservato che tra tutte le storie di matrimonio che si sono narrate qui, quella del signor Rochester è la più lunga e avvincente? L'interesse del pubblico scioglie la lingua al narratore. Questo lo dissi più a me stessa che alla zingara. I cui strani discorsi, la voce e i modi, a quel punto mi avevano avviluppata in una specie di sogno. Dalla sua bocca uscivano una dopo l'altra frasi inattese, finché mi ritrovai chiusa dentro una rete in cui le idee si confondevano e mi domandavo quale spirito invisibile se ne fosse stato appostato per settimane accanto al mio cuore, a osservare i suoi moti e a registrare ogni battito. L'interesse del pubblico. Ripeté lei. Sì, il signor Rochester è rimasto per ore a pendere dalle incantevoli labbra che sembravano trarre tanto piacere nel parlargli, e ascoltava così volentieri, e pareva così grato per quel passatempo. L'avete notato? Grato? Non ricordo di aver colto alcuna gratitudine sul suo viso. Non l'hai colta, dunque l'hai analizzato. E cos'hai colto se non gratitudine? Non dissi nulla. Hai visto l'amore, non è vero? E guardando avanti, lo hai visto sposato e hai visto la felicità della sposa? No, non proprio. Talvolta la vostra arte di strega non funziona. Cosa diavolo hai visto allora? Non importa. Sono venuta a interrogarvi. Non a farmi interrogare. Dunque Rochester si sposerà, è certo? Sì, e con la bella signorina Ingram. Presto? Sembrerebbe proprio di sì. E senza dubbio, anche se con un'audacia che meriterebbe un castigo, tu sembri metterlo in dubbio, saranno una coppia incredibilmente felice. Thank you. però non sono venuta a farmi predire il futuro del signor Rochester, madre. Sono venuta a conoscere il mio. E voi non mi avete ancora detto nulla. Il tuo futuro al momento è incerto. Quando ti ho esaminata in viso, ho visto un tratto contraddire l'altro. La sorte ti ha assegnato una dose di felicità, questo è chiaro. L'ha messa da parte per te, l'ho vista. Sta a te tendere la mano e afferrarla, ma il problema è capire se lo farai. Inginocchiati ancora sul tappeto. Non tenetemi qui troppo, il fuoco mi brucia. Mi inginocchiai. Lei non si chinò su di me, ma si limitò a osservarmi, appoggiandosi allo schienale della poltrona. Poi cominciò a borbottare. La fiamma guizza negli occhi. Gli occhi brillano come rugiada. Sono dolci e pieni di sentimento. Sorridono delle mie ciance. Sono suscettibili. Le impressioni si susseguono una dopo l'altra nelle loro limpide sfere. Quando smettono di sorridere, sono tristi. Un'inconsapevole stanchezza grava sulle palpebre, è malinconia e deriva dalla solitudine. Si staccano da me, non sopportano un ulteriore esame, sembrano negare con un guizzo beffardo la verità di ciò che ho scoperto fin qui e disconoscere sia la sensibilità sia il dispiacere che vi ho scorto. Ma la loro fierezza e il loro riserbo non fanno che confermare la mia opinione. Sono occhi benevoli. Quanto alla bocca, talvolta vederla sorridere è una delizia. È incline a rivelare tutto ciò che immagina il cervello, anche se, oserei dire, tace sulle esperienze del cuore. Solo nella fronte vedo impedimenti a un esito favorevole. E questa fronte insiste a dire: posso starmene sola, non ho bisogno di vendere la mia anima per comprare la felicità. Ben detto, fronte, il tuo proclama sarà rispettato. Ho i miei progetti e nel farli ho ascoltato le richieste della coscienza, i consigli della ragione. Voglio raccogliere sorrisi, affetto, dolcezza. Mi basterà questo. Mi sembra di essere in preda a una sorta di raffinato delirio. Vorrei prolungare questo momento all'infinito, ma non oso. Fin qui mi sono controllato perfettamente. Ho agito come avevo giurato a me stesso di agire. Continuare così va oltre le mie forze. Alzatevi, signorina Eyre. Lasciatemi sola. La commedia è finita. Dov'ero? Ero sveglia o addormentata? Avevo sognato? Stavo ancora sognando? La voce della vecchia era cambiata. L'accento, i gesti. Tutto quanto mi era familiare come il riflesso del mio viso in uno specchio. Come le parole che mi uscivano di bocca. Mi alzai, ma rimasi lì. Guardai. Attizzai il fuoco e guardai meglio, ma lei si coprì ancor di più la faccia col cappellaccio e le fasce e ancora mi fece cenno di andarmene. Le fiamme le illuminarono la mano tesa. Ormai sul chi vive, pronta a nuove scoperte, la notai immediatamente. Una mano piena ed elastica, con dita lisce ben fatte. Sul mignolo brillava un grosso anello. E chinandomi in avanti per osservare, vidi una pietra che avevo visto centinaia di volte. Tornai allora a guardare la faccia che non mi evitava più e anzi, levati fascia e cappello, si sporse verso di me. «Ebbene, Jane, mi riconoscete?» chiese la voce nota. «Toglietevi quel mantello rosso, signore, e allora... Ma il laccio è annodato, aiutatemi!» «Strappatelo, signore!» «E va bene, via, via questo ciarpame!» E Rochester emerse dal suo travestimento. «Ma signore, cosa vi è saltato in mente?» Sono stato bravo, non credete? Con le signorine certo ve la siete cavata bene. E con voi no? Come non avete recitato la parte della zingara? E che parte ho recitato? La mia? No, quella di uno strano personaggio. Insomma, credo che abbiate cercato di tirarmi fuori qualcosa o di tirarmi dentro qualcosa. Avete detto delle cose senza capo né coda per farle dire anche a me. Non è bello, signore. Mi perdonate, Jane? Non posso dirvelo, prima devo pensarci su. Se dopo un'attenta riflessione sarò certa di non essere incappata in qualche dichiarazione assurda, cercherò di perdonarvi. Ma avete fatto male. Ah, ma voi siete stata molto accorta, molto prudente, molto assennata. Infatti, meglio che non mi trattenga troppo, signore. Devono essere quasi le 11. Lo sapete, signor Rochester, che dopo la vostra partenza stamattina è arrivato un forestiero. Un forestiero? No, chi può essere? Non aspettavo nessuno. Se n'è andato? No. Ha detto di conoscervi da tanto tempo e di potersi prendere la libertà di trattenersi qui fino al vostro ritorno. Ma che diavolo? Ha detto come si chiama? Si chiama Mason, signore. Viene dalle Indie Occidentali, da Spanish Town, in Giamaica, credo. Rochester era vicino a me e mi aveva presa per mano come per condurmi a una sedia. Mentre parlavo mi afferrò il polso stringendolo convulsamente. Il sorriso gli si gelò sulle labbra e una fitta di dolore parve mozzargli il respiro. Mason, le Indie Occidentali, ripeté. E scandì le sillabe 3 volte e ogni volta si faceva più terreo. Sembrava completamente fuori di sé. «Vi sentite male, signore?» domandai. «Jane, che colpo! Che gran colpo, Jane!» esclamò barcollando. «Appoggiatevi a me, signore!» «Jane, già una volta mi avete offerto la vostra spalla. Fatelo ancora!» «Sì, sì, signore, e il mio braccio!» Si sedette e mi fece sedere accanto a lui. Tenendo la mia mano tra le sue, si mise a strofinarla, fissandomi allo stesso tempo con un'espressione cupa e piena d'angoscia. «Mia piccola amica», disse, «vorrei essere in un'isola tranquilla, solo con voi, lontano da ogni preoccupazione, pericolo e orribile ricordo. Posso aiutarvi, signore? Darei la vita per voi». «Jane, se avrò bisogno di aiuto, lo chiederò a voi, ve lo prometto». «Grazie, signore. Ditemi cosa devo fare». «Per il momento andatemi a prendere un bicchiere di vino in sala da pranzo. Staranno cenando adesso e ditemi se c'è anche Mason e cosa sta facendo». Mi avviai, trovai tutti quanti in sala da pranzo intenti a cenare, come aveva detto il signor Rochester. Non erano seduti a tavola perché le vivande erano disposte sulla credenza. Ciascuno aveva scelto ciò che voleva e si erano formati dei gruppi di persone in piedi qua e là con i piatti e i bicchieri in mano. Sembravano tutti al settimo cielo. Ovunque risuonavano risa e la conversazione era animata. Riempii un bicchiere di vino. Mentre lo facevo vidi la signorina Ingram guardarmi corrucciata, convinta, credo, che mi stessi prendendo una libertà. E tornai in biblioteca. L'estremo pallore di Rochester era scomparso e lui aveva recuperato la sua aria ferma e decisa. Mi prese il bicchiere di mano. «Alla vostra salute, mio spirito officiante», disse. Tracannò il contenuto e mi restituì il bicchiere. «Cosa stanno facendo, Jane? Ridono, conversano, signore? Non hanno un'aria preoccupata e misteriosa, come se avessero sentito qualcosa di strano?» «Per nulla, scherzano in grande allegria». E Mason rideva anche lui. «Se adesso venissero qui, tutti insieme, e mi sputassero addosso, cosa fareste, Jane?» «Li caccerei dalla stanza, se potessi, signore». Lui fece un sorriso a mezza bocca. «Ma se io andassi da loro e si limitassero a guardarmi freddamente, sussurrando tra loro parole di scherno